da ieri Isaac Asimov non c'è più, ci ha lasciato alcuni grandi libri, una produzione copiosissima come divulgatore, come giornalista, ma soprattutto come scrittore di fantascienza. Certo, anche come fiction. Beh, direi che è il caso di dire che muore, che forse in fondo con lui si può dire che è morta definitivamente un certo tipo di fantascienza che è stata storicamente molto innovativa, voglio dire negli anni, fine anni 30, primi anni 40 e per tutti gli anni 50, cioè il periodo che io personalmente, ma insomma molti con me o io con molti consideriamo il suo periodo migliore, quello più diciamo creativo. Che è stata appunto, ripeto, in quegli anni una fantascienza fortemente innovativa, anche se invece poi nell'ultimo invece periodo si era ridotta, voglio dire, la sua produzione letteraria un po' a una ripetizione, direi, diciamo, così, narrativamente un po' stanca di, insomma, cliché ormai, così, ormai vecchi, ecco. Però quando, certo, quando Asimov cominciò nel 38-39 a scrivere racconti di fantascienza e fra i primi, quelli poi famosissimi che sarebbero diventati quelli delle sue due o tre raccolte di robot, oltre che molti altri naturalmente, la fantascienza era effettivamente un genere molto avventuroso, molto anche direi superficiale. Destinato prevalentemente forse a un pubblico adolescenziale, così senza neanche tante pretese, insomma. Asimov con altri, naturalmente, con Robert Heinlein, con Van Vogt e con Sturgeon, tutti quanti personaggi ormai scomparsi, a parte credo Van Vogt, che cosa fece, insomma, dalle pagine di questa ormai famosa e mitica rivista che era Astounding Science Fiction, poi trasformata in analog, seguendo le, diciamo, idee del direttore Campbell, Asimov e i suoi amici, forse più in un primo tempo Heinlein che non Asimov, ma insomma anche Asimov, introdussero, come dire, un criterio di maggiore plausibilità, sia pure fantastica, di maggiore attenzione alle conseguenze, logiche e anche direi sociali delle invenzioni fantastiche che si venivano, di cui si parlava, e quindi così insomma diciamo trasformava un po', contribuiva a trasformare la fantascienza in una narrativa per un pubblico molto, molto più maturo, insomma, ecco. La fantascienza precedente Asimov l'aveva amata moltissimo, come in fondo l'ha poi amata Spielberg, che è molto più giovane di lui, oppure Lucas, i quali però forse sono, diciamo, rimasti un po' troppo però legati a quella idea di fantascienza un po' appunto magica, adolescenziale, eccetera, mentre Asimov ne faceva un'altra cosa. Certo, con Asimov si può dire certamente che quel tipo di appunto fantascienza anche innovativa, quindi i racconti dei robot, i bellissimi romanzi direi degli anni 50 sui robot umanoidi, Abissi d'acciaio e Il sole nudo, e soprattutto la diciamo, serie che è la sua più famosa nel mondo, cioè quella di Foundation, quella che è stata tradotta in italiano come Cronache della Galassia e così via. In queste, dicevo, certamente Asimov, come dire, per questa fantascienza forse va benissimo la, come dire, formula di letteratura di idee che è stata spesso appunto coniata per la fantascienza, perché Asimov non, come dire, badava molto allo stile, no? Diceva spesso che era meglio scrivere, diciamo, che lui era più contento a scrivere 10 libri nuovi piuttosto che non a raffinare lo stile o a renderne migliore uno. E questo naturalmente si vede perché dal punto di vista della ricchezza della lingua e della, insomma, parola non è che i libri di Asimov siano, diciamo, il meglio. Però c'è, diciamo, certamente una grande immaginazione e una grande capacità soprattutto di mettere a appunto, frutto la sua formazione scientifica. Fino al 58 Asimov era stato, diciamo, aveva ancora insegnato addirittura biochimica nelle università americane, e quindi appunto di fare delle diciamo, idee in qualche modo scientifiche, anche se ovviamente non poi del tutto plausibili, perché insomma l'idea di questo cervello positronico dei robot non è che abbia molto di, sono praticamente parole insomma messe lì, però diciamo, lui sviluppava queste diciamo, idee e poi voglio dire. Il fatto che diciamo, la effettiva scienza dei robot abbia preso il suo nome proprio da una sua invenzione linguistica, cioè robotica, vorrà pur dire qualche cosa, insomma. Negli ultimi anni, Asimov, nel corso degli anni, con questa sua immensa e sterminata produzione, si era un po' trasformato in un, come dire, in un grande sacerdote della fantascienza passata, faceva più che altro, scriveva antologie, opere in qualche modo in cui, diciamo, celebrava la storia di questo genere che per tanti versi gli era poi sfuggito un po' di mano. Negli ultimi libri, volevo dire che sono libri sicuramente inferiori ai suoi più grandi degli anni 40-50, aveva però dimostrato di essere ancora capace di comprendere anche i mutamenti di paradigma in corso nella, appunto, attività scientifica. Si era molto avvicinato a tematiche ambientaliste, tutta questa sua, diciamo, in questi suoi ultimi romanzi di fusione e di, diciamo, raccordo fra i suoi grandi cicli, quello appunto dell'impero, insomma, galattico, quello di Foundation e quello dei robot, con la mediazione dei seguiti ai due, appunto, romanzi Abissi d'acciaio e Il sole nudo. Questa sua idea dell'interdipendenza della, diciamo, Terra, questa sua idea addirittura di un intero mondo senziente in cui tutti gli abitanti del pianeta sono collegati, eccetera eccetera, insomma, direi che testimonia di una sua, appunto, capacità, anche se non più ormai dal punto di vista narrativo, ma quantomeno dal punto di vista delle idee, di comprendere, di rendersi conto, insomma, di quello che succedeva nel mondo dal suo, in fondo, eremo, da questo suo appartamento di New York, dal quale non si era mai praticamente mosso per gran parte della sua vita, perché soffriva di vertigini, non voleva volare, eccetera eccetera. In fondo Asimov è stato in qualche modo capace di segnare un'epoca della, come dire, fantascienza. Certo, ormai altri sono gli autori, altre sono le tendenze alle quali ci rivolgiamo per capire meglio il presente. Tutto però sommato, insomma, direi che quell'epoca, cioè senza quella rivoluzione fatta da Asimov e diciamo dai suoi compagni negli anni 40-50, forse non avremmo avuto neanche la fantascienza sociologica dopo, la new wave della fine degli anni 60 e forse neanche il cyberpunk di oggi, insomma. Quindi muore veramente un'epoca che probabilmente era già morta, già per conto suo, come si può concludere, insomma, morto Asimov, viva la fantascienza.